Focus Economia. Le 17:09 minuti 52 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Nonostante la giornata di festa, i mercati sono aperti e per il momento le notizie sembrano abbastanza buone, perché le perdite si sono ridotte negli ultimi minuti di circa 2/3. Anche sulla scorta di quel che sta succedendo a Wall Street, il Dow Jones guadagna lo 0,82%, il Nasdaq 1 punto percentuale, Milano perde 0,5 punto percentuale dopo che era arrivata a perdere 1,5 punti nel corso della giornata. Vedremo naturalmente di capire un pochino più avanti che cosa è successo anche nella giornata di oggi sui mercati, influenzati da varie notizie, soprattutto per quanto riguarda l'Europa naturalmente, poi qualche dato macroeconomico americano. E poi parleremo della vicenda di British Petroleum, non tanto e non solo per il fatto che i tentativi proseguono per turare la falla che si è creata circa 45 giorni fa, insomma 50 giorni fa, a largo del Golfo del Messico dopo l'esplosione della piattaforma, ma anche gli effetti che può avere e sta avendo tutto questo non solo sul mercato del greggio, quindi sul prezzo del greggio, ma anche sulla stessa BP, che sta perdendo di giorno in giorno miliardi di capitalizzazione, e ormai le voci sono piuttosto insistenti che potrebbe essere oggetto di un'OPA di qualche concorrente. Queste naturalmente voci che circolano in queste ore, mentre nel frattempo potrebbe anche essere costretta a pagare parecchio denaro all'amministrazione americana. Questo il quadro di giornata. Naturalmente torneremo anche oggi alla missione italiana in Cina con il nostro inviato Sebastiano Barisoni. Prima di tutto le notizie in breve di questa giornata. Iniziando proprio dal petrolio, che ha aperto in calo a New York, ha ceduto lo 0,8% a $71,98 al barile, su qualche preoccupazione per la tenuta dell'economia globale. Eppure i segnali che arrivano dagli Stati Uniti sono abbastanza positivi. I compromessi per l'acquisto di abitazioni non nuove hanno segnato in aprile un rialzo del 6%, al di sopra delle attese degli analisti. Rispetto all'anno scorso si parla di un più 22%, quindi un dato particolarmente positivo. E un dato positivo arriva, un altro dato positivo è appena arrivato dagli Stati Uniti e riguarda General Motors, che ha aumentato le vendite del 16,6%, quindi un mercato, quello americano, che evidentemente va molto meglio di quello europeo, al di sopra delle attese degli analisti che scommettevano su un incremento del 5,9%. Notizie che fanno parte e non parte di quelle di mercato. Una arriva da Teheran, che ha venduto 45 miliardi di euro a quanto si apprende, oppure insomma sta tentando di vendere. La banca centrale iraniana ha messo a punto un piano per vendere 45 miliardi di euro appunto e acquistare in cambio dollari e lingotti d'oro. Questo è quello che riferisce oggi la televisione di Stato iraniana. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una marcia indietro dovuta all'indebolimento dell'euro a partire dall'esplosione della crisi greca. Vi segnalo peraltro che l'euro, dopo essere sceso sotto quota 1,22, sta recuperando qualcosa contro il dollaro 1,22,17. Sempre dall'Europa colpita dalla crisi greca, il governo tedesco ha varato oggi un disegno di legge che estende il divieto sulle vendite allo scoperto a tutte le azioni trattate in borsa. Il divieto riguarda le operazioni cosiddette naked, nude, cioè le vendite di titoli allo scoperto senza neanche averli ricevuti in prestito. Vi ricordiamo che tra l'altro il 18 marzo scorso la Consob tedesca aveva annunciato un divieto temporaneo sulle vendite allo scoperto sulle azioni di 10 gruppi bancari e assicurativi, nonché sui credit default swap che scommettono al ribasso sui titoli di Stato europei. E tra l'altro il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble dice che una tassa sulle operazioni finanziarie dovrebbe essere introdotta almeno in Europa, se non sarà possibile imporla a livello globale. Schäuble si dice incerto che i paesi più importanti del G20 possano raggiungere un accordo su questo tema in tempi brevi. Gli stati membri non hanno fatto abbastanza per frenare le remunerazioni dei manager del settore finanziario. Per questo Bruxelles pensa al varo di vere e proprie misure legislative, estendendo il giro di vita su stipendi e bonus anche al settore delle assicurazioni e dei fondi di investimento. Questo è quel che emerge da un rapporto presentato oggi dalla Commissione Europea, che tra l'altro tiene dentro una serie di linee guida per la riforma della finanza nel vecchio continente, nell'area euro. Tra queste proposte della Commissione Europea c'è la centralizzazione della vigilanza sulle agenzie di rating, tanto finite nelle polemiche in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, prevedendo anche un sistema di sanzioni per le agenzie che intenzionalmente o negligentemente violano le regole stabilite a livello comunitario. A vigilare sarà l'ESMA, la European Securities and Markets Authority, una delle tre autorità di supervisione previste dalla riforma UE sulla vigilanza finanziaria. Altri dati dall'Europa importanti: il premio di rendimento dei titoli di Stato decennali spagnoli rispetto ai Bund tedeschi è volato a 176 punti base, segnando livelli mai toccati dal lancio dell'euro oltre 10 anni fa. Alcuni trader citati dall'agenzia Reuters ipotizzano che la Banca Centrale Europea stia concentrando gli acquisti di titoli di Stato cosiddetti periferici varati agli inizi di maggio contro la crisi del debito europeo su Grecia, Portogallo e Irlanda, lasciando ai margini del programma Spagna e Italia, che ne risentono con un calo dei prezzi e un conseguente aumento dei rendimenti. La dimostrazione sarebbe anche nel fatto che i BTP hanno raggiunto i nuovi massimi da oltre 10 anni. Si tratta del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali tedeschi e italiani. Lo spread è a 159 punti base, un livello che non si vedeva dal novembre del 99. Allora, nel frattempo, proprio sull'Italia, non sull'Italia, ma Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, i cosiddetti paesi PIGS, sale il rischio di default in un mercato messo in allarme soprattutto dalle difficoltà finanziarie proprio di Madrid. Secondo i dati di Bank of America, infatti, la Spagna dovrà rifinanziare oltre 48 miliardi di debito tra giugno e settembre, di cui gran parte il mese prossimo. I credit default swaps sul debito dell'Italia sono saliti di 17 punti base alla quota record di 249 punti. Quindi segnali non particolarmente tranquillizzanti e che però, insomma, ai quali però i mercati non sembrano reagire particolarmente male. Si diceva, insomma, a Milano in questo momento cede solo lo 0,46%, che tutto sommato in questo periodo non è male. Oh, e veniamo alle notizie dalle aziende, iniziando da Finmeccanica, che si è appreso questa mattina, ha vinto una commessa da 2,1 miliardi di dollari per satelliti delle telecomunicazioni. Insomma, Iridium, il più grande fornitore mondiale di servizi di comunicazione mobile satellitare, ha aggiudicato a Thales Alenia Space un contratto del valore complessivo di 2,1 miliardi di dollari per la realizzazione della costellazione satellitare a orbita bassa Iridium Next, che riguarda 81 satelliti. E poi, sempre in tema di notizie aziendali, l'inglese Prudential si sta sostanzialmente ritirando dall'offerta da 35,5 miliardi di dollari che avrebbe cambiato il panorama mondiale assicurativo e che prevedeva l'acquisto di AIA Group, che è la divisione asiatica di AIG. Il fallimento dell'intesa, raggiunta il 1 marzo scorso, potrebbe costare alla società inglese 450 milioni di sterline, parliamo di 660 milioni di euro, un terzo del profitto operativo 2009 e il posto all'amministratore delegato Tijame Tiam. Infine, l'impresa taiwanese Foxconn, si è parlato moltissimo in quest'ultimo periodo della Cina e degli scioperi. L'impresa taiwanese Foxconn, nella cui fabbrica nel sud della Cina si sono tolti la vita nei mesi scorsi 10 operai, avranno un aumento di salario del 30%. Tra l'altro, di questa vicenda ha parlato per la prima volta il presidente della Apple, Steve Jobs, perché la Foxconn produce componenti per appunto Apple e per la Sony. Ha detto che si tratta di una situazione difficile, stiamo cercando di capire prima di affermare che abbiamo trovato una soluzione. E proprio a proposito di Cina, veniamo al primo tema di questa giornata. ed è appunto la missione in Cina che 3 giorni fa ha preso il via, la terza missione imprenditoriale italiana nel paese organizzata da ICE, Confindustria e ABI. 230 aziende, 600 imprenditori, 9 gruppi bancari, 18 associazioni industriali appartenenti a tutti i settori del Made in Italy. Colleghiamoci allora col nostro inviato Sebastiano Barisoni che sta seguendo questa terza missione nel paese. Buonasera Sebastiano, a te la linea. Sì, ciao e buonasera Simone, di nuovo a te e ai nostri ascoltatori. Terzo giorno della missione italiana in Cina. Oggi elemento è giornata molto istituzionale, si celebrava infatti la festa della Repubblica e si è celebrata anche nei padiglioni dell'Expo di Shanghai, alla presenza del ministro Sacconi, della presidente Confindustria Marce Gaglia e di altri esponenti, tra cui per esempio il numero uno di Intesa San Paolo Corrado Passa. Queste interviste le ascolteremo più avanti, le ha realizzate per noi infatti oggi la collega di Radio Corio, il Sole 24 Ore, Teresa Trillò. Noi invece abbiamo continuato a raccogliere testimonianze, consigli, suggerimenti di vari imprenditori italiani. E allora, sempre in questo viaggio tra gli imprenditori italiani che già lavorano in Cina da anni o anche chi ha esperienze non solo in imprese direttamente controllate dall'Italia, siamo con la dottoressa Lucia Bini, che è CEO della società giuridica, base giuridica cinese, mi riferisco a RefComp Compressor Shanghai, però di proprietà italiana. E lei, dottoressa, è in Cina dal 1991 e dal 2005 poi avete sviluppato questa attività. Le chiedo in primo luogo di dare un consiglio, come facciamo ormai da giorni, agli imprenditori in ascolto sugli errori da evitare o le opportunità da non perdere quando si decide di venire in Cina. Beh, io inizierei dalle opportunità, tenere conto che il mercato cinese è un mercato enorme e che sicuramente dà c'è spazio per tutti, quindi non vederlo come una minaccia, non vedere la Cina come una minaccia. Questo fa sì di solito che si sia prevenuti e che quindi si veda la Cina, i cinesi, l'economia cinese probabilmente più come una minaccia anziché come un'opportunità. Quindi essere molto aperti e capire che un mercato di 1.300 milioni di persone ha sicuramente grandissime opportunità per tutti. Avendo ben in mente questo, allora si può iniziare a cercare e a valutare le varie opportunità che ci sono, che si presentano e capire con il proprio prodotto, con il proprio servizio dove si può andare a diciamo investire e dove il mercato cinese può recepire appunto questi servizi o questi prodotti. Questo a livello generale, ma a livello più particolare, insomma, se lei dovesse ripensare alla sua esperienza qui in Cina, visto che poi voi appunto, o meglio, lei è responsabile di una società a diritto cinese, ma di proprietà italiana, ecco, gli errori che non commetterebbe più o le opportunità che non si lascerebbe più sfuggire, proprio come consiglio a chi è in ascolto. Beh, errori probabilmente sin dall'inizio sarebbe è molto opportuno fare una scelta della location diciamo valuti sul lungo periodo, non sul brevissimo periodo, perché quando si diciamo nel momento in cui si inizia ad investire diventa molto importante capire dove si sarà da qui ad un po' di anni. Se invece si investe per il medio periodo o il brevissimo periodo per poi perché non si sa dove si andrà, allora diciamo chiarirsi bene le idee per avere ben presente che cosa si vuole fare appunto nel futuro e come l'azienda sarà da qui a 10 anni. Ecco, Mr. Yun Yang Yang, spero di aver pronunciato bene il suo nome, lei è manager del gruppo Riello in Cina ed ha avuto un'esperienza anche con il gruppo Iveco. Abbiamo parlato e ragionato degli errori che non devono compiere le imprese italiane quando sbarcano in Cina. Molte volte viene fatto notare anche che c'è un approccio culturale sbagliato rispetto alla Cina. Ieri ascoltavamo molti imprenditori dire che in sostanza sbaglia chi viene in Cina pensando di imporre quello che è il modello italiano in Cina, vendere un prodotto solo perché funziona in Italia, ma anche il modello produttivo. Lei, da cinese che lavora per le imprese italiane, sebbene stiamo parlando di grandi imprese, quali errori anche culturali ha visto commettere nello sbarco in Cina negli anni passati? Secondo me, quindi Cina è proprio un paese in via dello sviluppo, però anche è un paese, c'è tanta ricchezza negli ultimi anni. Quindi, come la mia esperienza, ci sono parecchie gente che pensano che Cina sia un paese in via sviluppo, quindi pensano che i prodotti forse sono quelli più economici. In realtà non è così. Quindi Cina, come cinesi, soprattutto quelli ricchi, che cercano di seguire la moda, quindi vogliono i prodotti più nuovi, più moderni. Quindi questo potrebbe essere un errore che un'azienda vuole portare prodotto in Cina con modello vecchio, invece è sbagliato, quindi non si riesce a sviluppare a fine il mercato. E nei rapporti invece di partnership tra italiani e cinesi, perché sappiamo che le joint venture negli anni passati non hanno sempre funzionato bene, ci sono state delle incomprensioni, ecco, lei suggerirebbe a un imprenditore italiano di produrre in Cina avendo al 100% il controllo, o ancora secondo lei è possibile pensare a delle joint venture con soci cinesi? Come la mia esperienza, io suggerirei se si fa un'azienda in Cina è meglio 100% per conto suo, perché la cultura cinese, cultura italiana sono veramente tanto diversi, no? Soprattutto la mentalità. E poi ci sono anche gli altri aspetti che può portare delle difficoltà per collaborare con due parti. Quindi esperienza mia, quindi suggerisco è meglio fare l'azienda UFI 100%. Un'ultima domanda, per quello che riguarda invece gli investimenti cinesi in Italia, non è il suo campo, ma secondo lei arriveranno investimenti cinesi verso l'Italia o il nostro paese soffre ancora di un'immagine troppo di secondo o terzo piano, troppo defilata in questo paese? Come so io, adesso ci sono già delle aziende molto grosse che stanno pensando di entrare paesi, diciamo, occidentali, no? Sia America anche in Europa. Però qua, secondo me, la difficoltà è i cinesi hanno pensato tante cose come la mentalità cinese, quindi anche con tante operazioni fatte in Europa, anche in America, sbagliati, secondo me. Quindi è tanto difficile, non come loro pensavano. È più difficile. Vorrei sapere se la dottoressa viene d'accordo su questo ultimo aspetto. Sicuramente c'è una difficoltà da parte anche dei cinesi di capire l'Italia e gli italiani, questo è sicuro. Quindi come c'è ovviamente viceversa da parte degli italiani la comprensione. Sicuramente, non, per come la vedo io, l'Italia non è un paese attrattivo ancora per i cinesi. Lo è solo dal punto di vista, diciamo, più dell'immagine, dell'estetica, del viaggio, però per poter fare degli investimenti, parlare investimenti nel campo industriale, nel campo anche finanziario eccetera, direi che è abbastanza ancora lontano dalla loro meta sicuramente. Grazie quindi alla dottoressa Lucia Bini e al dottor Yin Yang Yang. E questo è tutto per quello che riguarda questa tappa della missione. Domani ultima giornata, ascolteremo altri interventi. Simone, io ti ridò la linea anche perché, appunto, come ricordavamo, le altre voci più istituzionali le ha raccolte per noi la collega di Radio Cori sulle 24 ore, Teresa Trillò. Grazie dunque Sebastiano, e poi vedremo se più avanti avremo anche lo spazio per ascoltare un altro paio di interviste che hai realizzato nei giorni scorsi, appunto là a Shanghai, sempre con imprenditori italiani. Andiamo appunto alle voci raccolte dalla collega di Radio Cori sulle 24 ore, Teresa Trillò. Iniziamo dalla presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Oggi abbiamo proprio parlato di due settori che potremmo sviluppare molto bene, che potrebbero darci una capacità di penetrare il mercato molto maggiore. Quello legato, diciamo, all'urbanistica più verde, e qui insomma ogni anno si costruiscono nuovi agglomerati urbani pari a Pechino, quindi è una cosa enorme. C'è un problema onestamente di inquinamento molto pesante, quindi questo è un settore in cui la nostra filiera delle infrastrutture, la nostra filiera del mobile, la nostra filiera dell'arredo anche urbano potrebbe trovare grandi opportunità. E poi abbiamo parlato del tema dell'efficienza energetica, del risparmio energetico. Noi siamo già i quinti player nel mondo, qui però abbiamo una posizione meno alta e quindi io credo che su questo noi abbiamo settori quali l'elettrodomestico, i motori elettrici, la parte cogenerazione, in parte anche le rinnovabili, il trasporto e le macchine e altri che hanno già sviluppato tecnologie per risparmio energetico molto significative e quindi io credo che noi abbiamo possibilità di venire qui e vendere i nostri prodotti. Dunque queste le idee della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che citava tra l'altro giustamente anche il settore del legno e dell'arredo, insomma lo sentivamo nei giorni scorsi nelle interviste realizzate da Sebastiano Barisoni, si citava un dato, per esempio il 30% delle camere da letto acquistate dai cinesi provengono dall'Italia, sono di produzione italiana, quindi anche questo è un settore da sviluppare. Adesso noi diamo la linea al meteo, ci ritroviamo subito dopo e sentiremo altre voci che arrivano dalla Cina, quelle di John Elkann e di Piero Gnudi. Bentornati a Focus Economia, sono le 17.36 minuti, nel frattempo hanno chiuso i mercati, alla fine Milano fa segnare un calo di mezzo punto percentuale sul FTSE MIB e uno 0,45% sul FTSE All Share, quindi tutto sommato bene, si sono contenute le perdite, un pochino come ieri. Di questo parleremo più avanti, così come naturalmente dei singoli titoli a chi ce ne chiede via SMS. Adesso ritorniamo alla Cina e sentiamo al microfono di Teresa Trillò di Radio Corriere Il Sole 24 Ore, John Elkann, presidente di Fiat. Noi come gruppo abbiamo investito molto in questo paese, abbiamo una presenza importante e ci auguriamo di svilupparci ancora di più. Ma noi abbiamo adesso nel 2012 uno stabilimento che verrà fatto nel sud, nel Guangdong, proprio per fare uno stabilimento di automobili. Domani inauguriamo uno stabilimento della Magneti Marelli, che è un componentistica e sta avendo un mercato proprio da servire che si sta espandendo sempre di più. Se uno considera che dal 2009 la Cina è il mercato più grande al mondo di macchine nuove, lunedì la delegazione è andata a Chongqing, dove è stato a vedere lo stabilimento dell'Iveco, e noi abbiamo storicamente qua una presenza forte nei veicoli commerciali, nei camion. Dunque ci sentiamo a casa. Questo dunque John Elkann, presidente di Fiat, è sempre al microfono di Teresa Trillò, il presidente dell'Enel, Piero Gnudi, che parla della Cina, dell'investimento in Cina, dove Enel è il principale acquirente privato di certificati di emissione di CO2. Ascoltiamolo. Anche l'Enel ha voluto partecipare a questa importante rassegna, che è l'anticipo di quello che sarà a Milano 2015. E certamente il nostro padiglione è un padiglione molto bello, valorizza molto il nostro patrimonio culturale e credo che sia oggi un'ottima vetrina di tutto quello che può essere il Made in Italy per il futuro. Interessi di Enel in Cina? In Cina acquistiamo prodotti, acquistiamo certificati di emissione. Abbiamo un ufficio che ogni anno acquista circa 300 milioni di euro. E sempre al microfono di Teresa Trillò, sempre Piero Gnudi, per parlare però di cose più strettamente italiane, il collocamento di Green Power. Il programma va secondo quello che le previsioni. Io penso che vada verso settembre dopo, lo so, però oggi come oggi, tutte le volte che mattina leggi il giornale non sa cosa succederà il giorno dopo. Penso quindi, oggi fare delle previsioni sui mercati finanziari è difficile. Ma io ritengo che i nostri programmi non dovrebbero essere cambiati. Non sono cose che sono scritte sul marmo, dipende da come va il mercato. Se c'è un mercato che è particolarmente negativo, beh, faremo qualche slittamento. Ma ad oggi come oggi, che non sono ipotesi, noi riteniamo non si realizzeranno. Questo dunque quel che ha detto Piero Gnudi, da segnalare che forse qualche interesse per le quotazioni in borsa torna, se è vero quel che riferisce l'agenzia Bloomberg, che citando fonti vicine alla trattativa dice che Prada ha riaperto il dossier sul possibile sbarco in borsa dopo aver rinunciato già 4 volte negli ultimi 10 anni ai piani di quotazione. La casa di moda di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli starebbe tra l'altro considerando anche un IPO ad Hong Kong oltre che a Milano, però non avrebbe assegnato un mandato alle banche. Queste naturalmente sono solo indiscrezioni circolate da l'agenzia di stampa Bloomberg. È il momento della borsa. Livia Zancaner, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, una giornata ci sembra parallela a quella di ieri, ribassi piuttosto pesanti nell'arco della mattinata e poi ci si risolleva un po' sul finale. Sì, infatti le borse hanno registrato perdite superiori all'1% nel corso della mattinata e fino a metà seduta, con Milano che registrava la performance peggiore in Europa, e poi si sono risollevate grazie all'andamento positivo di Wall Street, che ora infatti sta segnando un rialzo dell'1%, con il Nasdaq a più 1,05% e il Dow Jones a più 0,89%. Livia, tra i temi dominanti oggi gli energetici, in negativo sì. Naturalmente. Sì, allora in realtà poi sul finale di seduta hanno leggermente recuperato, terminando in Europa in calo dello 0,40% per quanto riguarda il settore. Allora il comparto ha risentito ancora delle notizie relative a BP, che ha ceduto lo 0,8% circa a Londra, dopo che ieri il governo americano ha annunciato l'avvio di 2 indagini per il disastro nel Golfo del Messico. Per quanto riguarda Milano, quindi hanno chiuso in calo Tenaris, Saipem ed Eni, mentre poi alla fine di seduta Saras ed Erga hanno chiuso sulla parità. Per quanto riguarda queste ultime due, Goldman Sachs ha ridotto il prezzo obiettivo su Saras, mentre ha incrementato quello su Erg, mantenendo giudizio neutral per entrambe. Oh, tra l'altro vengono diffuse adesso notizie dalle agenzie, poi ne parleremo più avanti della vicenda BP, che c'è stato un nuovo imprevisto nella nuova operazione che si chiama Cut and Cap per cercare di bloccare la fuoriuscita di greggio. Una delle seghe utilizzate per tagliare il braccio flessibile del pozzo è rimasta incastrata. Ne parliamo non per altro, ma perché anche questo ha impatti economici. Fiat, abbiamo dato ieri dati sulle immatricolazioni, il calo è per questo, Livia? Fiat ha chiuso la seduta a meno 0,8% all'indomani appunto della pubblicazione dei dati sulle matricolazioni di maggio. In Italia le vendite hanno mostrato una flessione del 13,8%, risentendo quindi dell'assenza degli incentivi. Per il Lingotto il calo è stato del 25,1%. La quota di mercato di Fiat è scesa sotto la soglia del 30%, quindi al 29,8% dal 30,7% di aprile. Alcuni analisti inoltre hanno detto di aspettarsi per l'intero 2010 una flessione del 15% delle vendite per il Lingotto. Per quanto riguarda le banche, mi sembra che lo schema sia lo stesso dei giorni scorsi, insomma, va male il mercato, vanno male le banche o viceversa? Sì, infatti il comparto bancario in Europa ha terminato la seduta con una flessione dello 0,8% circa, e il comparto era già stato penalizzato alla vigilia dalle stime pubblicate alla Banca Centrale Europea, che si aspetta una seconda ondata di svalutazioni per gli istituti di credito in Europa per un valore di circa 90 miliardi nel 2010. Quindi a Milano sul paniere principale la peggiore è stata il Banco Popolare, che ha chiuso a meno 1,8%, seguita da BPM, UBI, Unicredit e Intesa San Paolo. Inoltre la Banca d'Italia ha comunicato di aver approvato delle regole più rigide per quanto riguarda le operazioni di cessione da parte degli istituti di credito di parte del patrimonio immobiliare, ottenendo poi gli edifici in locazione. Questo potrebbe avere un impatto. Allora, Unicredit giù dello 0,90%, Intesa San Paolo si diceva giù dello 0,71%, tra parentesi, tra l'altro su questo tema ci sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, che proprio dalla Cina commenta l'andamento al ribasso dei titoli bancari di questi giorni. Sostiene Passera che è principalmente conseguenza delle incertezze regolamentari e dei ritardi che su questo fronte si continuano ad accumulare. Ecco, Livia, stupisce un po' Finmeccanica perché insomma oggi è stato annunciato un accordo per un contratto del valore complessivo di 2,1 miliardi di dollari che si è aggiudicata a tale Alenia Space, eppure le cose non sono andate così bene come ci si aspettava. No, le azioni in realtà hanno chiuso in territorio positivo a più 0,70%, ma in realtà la seduta non è stata particolarmente brillante. Il titolo infatti ha resistito alle vendite per quasi tutta la giornata, ma oggi è arrivata un'altra notizia comunicata dall'Istituto Internazionale di Stoccolma, che ha stimato che nel 2009 le spese militari hanno registrato un aumento del 6% circa rispetto al 2008 e del 49% rispetto al 2000, comunicando quindi che il settore non ha risentito in maniera particolare della crisi, e quindi di questo può beneficiare Finmeccanica. Infine Campari, particolarmente positivo, un più 3,10% sul FTSE MIB, è il titolo migliore. C'è un motivo particolare? Allora, motivi particolari non ce ne sono. In realtà le azioni hanno mostrato un andamento altalenante nelle ultime settimane. Le azioni oggi hanno chiuso a 4,24 euro, che è il massimo storico. Infatti il titolo ha superato la soglia di 4,2 euro, che era stata raggiunta in chiusura di giornata il 24 luglio del 2007. Le azioni inoltre avevano toccato un minimo da febbraio, il 7 maggio, data da cui hanno poi guadagnato il 15% circa, complice anche una trimestrale superiore alle attese pubblicata il 13 maggio. Ma per quanto riguarda l'andamento di oggi non ci sono comunque notizie particolari. Grazie dunque a Livia Zancaner di Radio Coro Il Sole 24 Ore, buonasera. Arrivederci. Allora, diamo un quadro finale di giornata. Campari, si diceva, più 3,10%, bene ST e Luxottica in guadagno del 2,5%, Pirelli del 2,32%, Parmalat dell'1,71%, bene Impregilo, 1,5% percentuale di guadagno, Bulgari più 1,39%, Telecom Italia più 1,21%, Ansaldo 1% percentuale, così come Snam e Rete Gas, più 0,70% su Autogrill e Finmeccanica, Lottomatica più 0,66%, Geox più 0,58%, Atlantia più 0,27%, intorno agli 0,15% sia Terna che Italcementi che Mediaset. In negativo CIR meno 0,07%, 0,5% percentuale di calo per Fondiaria Sai, un calo dello 0,60% per Mediolanum, A2A e Generali, Intesa San Paolo giù dello 0,71% come si diceva, Prismian dello 0,80%, Eni dello 0,85%. Poi più avanti torneremo sui petroliferi e sul, insomma, caso BP. Fiat meno 0,86% e si diceva, Mediobanca giù dello 0,90%, così come Unicredit, Exor, Azimut meno 1,13%, Ubibank e Popolare di Milano meno 1,17%, Unipol meno 1,19%, Enel giù dell'1,20%, Tenaris dell'1,26%, Monte dei Paschi di 1,5%, Buzzi Unicem altrettanto, sulla scorta un po' di tutti i cementieri europei in questa e mondiali in questa giornata. Saipem giù dell'1,70%, il Banco Popolare dell'1,80%, Euro che quota 1,22,07 contro dollaro. La viabilità, ci ritroviamo subito dopo, torneremo a parlare di mercati, ma insomma non per fare la stretta cronaca di giornata, ma per fare un punto un po' su quel che sta succedendo in queste giornate. Allora, 17:49 minuti 20 secondi, parliamo di mercato. Nel frattempo vi segnalo che Raymond McDaniel, amministratore delegato di Moody's, ammette le colpe della sua società, dice sui mutui subprime i nostri rating erano errati. Forse questa missione arriva con un filino di ritardo, però insomma quantomeno è arrivata. Nel frattempo c'è da registrare sempre sul tema delle agenzie di rating un'apertura del Presidente della Commissione Europea Barroso all'ipotesi tedesca di un'agenzia di rating europea. E qua chiudiamo sulla questione rating e salutiamo il nostro Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Buonasera Walter. Buonasera. Allora, si diceva di un paio di giornate parallele, iniziate malissimo e chiuse insomma un po' così, piuttosto in negativo, ma non in maniera pazzesca. È una fase abbastanza nervosa, ci sembra di capire. Come mai? Ma nervosa, ma non è che dia molte indicazioni, perché prendiamo ieri sera la borsa di New York, fino alle 9.35 non andava male, improvvisamente ha perso quasi un punto percentuale nell'ultima mezz'ora, gli ultimi 25 minuti. La settimana precedente questo fenomeno del calo improvviso nell'ultima mezz'ora e un'altra seduta di un rialzo improvviso nell'ultima mezz'ora si è manifestato almeno 3-4 volte e negli ultimi 2-3 mesi è frequentissimo. Allora, cosa sta succedendo? Queste qui sono operazioni tecniche difficili da capire, ma sicuramente sono alimentate da quegli operatori che lavorano attraverso i computer, cioè gli algoritmi su dati quantitativi all'interno dei loro computer, il cosiddetto trading ad alta frequenza, che viene fatto in millisecondi, millesimi di secondo, no? Ecco, questi qui quindi sono probabilmente chiamiamolo dei giochetti, no? Che vengono fatti e buttano giù il mercato o lo tirano su, più che altro è stato buttato giù, ma non se ne sa, non se ne conosce il motivo. Qualcuno dice che invece è qualche investitore importante che vuole assaggiare la resistenza del mercato e vendere. Non lo so, siamo nel campo delle interpretazioni, però fatto sta che queste sono cose abbastanza così tecniche, inusuali, non è che ti diano un'indicazione di come vanno i mercati. Infatti oggi l'America sta andando benino e ha tirato su anche le borse europee, che da negative hanno chiuso praticamente piatte, insomma. Walter, ti faccio una grande domanda, sapendo che ti esporrai a possibile pubblico ludibrio futuro. La grande domanda che si fanno tutti in questo periodo, se ciò a cui abbiamo assistito nelle settimane scorse è la coda della grande crisi o è l'inizio di qualcosa di nuovamente pesante? Allora, questo non so se... non lo so. Non so se, diciamo che il problema dei debiti sovrani è un problema che ci accompagnerà per tutto quest'anno e probabilmente anche negli anni successivi. Perché per ora è diventato acuta la crisi dei cosiddetti paesi a rischio del Mediterraneo, dell'Europa meridionale, oltre all'Irlanda. Ma non dimentichiamo che in situazioni analoghe c'è l'Inghilterra, lo sappiamo, e gli stessi Stati Uniti, il cui debito proiettato al 2012 dovrebbe superare nettamente il 100% del PIL. Se poi gli si aggiunge il debito delle agenzie di mutui casa, tipo Freddie Mac e Fannie Mae, si arriva al 130% del PIL. Cioè più in una situazione peggiore di quella italiana, no? Quindi io non penso che questo problema venga risolto. Se poi in futuro ci sarà un'altra fase ancora più acuta di quella che abbiamo visto qualche giorno fa della crisi, questo non lo so. L'idea però, Walter, è che comunque vacche grasse per i prossimi anni sarà difficile aspettarsene. No, pieno di problemi ed è sempre successo in tutti i periodi in cui la recessione, la crisi era stata dettata da un eccesso di debito. Qui adesso è lo Stato che detiene tutto il debito, si è fatto carico di tutto il debito che era delle banche, delle società, eccetera. E chi salva lo Stato? Si ritorna al ciclo precedente, saranno i cittadini che dovranno sacrificare qualcosa per salvare lo Stato. I cittadini e le imprese, quindi questo vuol dire che si tradurrà in una crescita economica più contenuta rispetto al passato, che è esattamente quel che si teme in questo periodo anche a causa dei programmi di austerità varati da una serie di paesi europei. Grazie dunque anche per oggi al nostro Walter Riolfi del Sole 24 Ore, che ci ha aiutato anche un attimo a fare un punto. Ogni tanto serve, anche quando le oscillazioni di mercato non sono pazzesche come nelle settimane scorse. Grazie a Walter Riolfi, noi diamo la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. Le 18, 8 minuti, 35 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, bentornati a Focus Economia. Sta parlando in questi minuti, o meglio, i media stanno anticipando un discorso del presidente americano Barack Obama a Pittsburgh che parla della famosa marea nera del Golfo. Dice può essere il risultato di un errore umano o di scorciatoie da parte di corporation, e poi ancora sia il potenziamento dell'energia nucleare negli Stati Uniti e un maggiore sfruttamento dei giacimenti di gas naturale. Così appunto Barack Obama, ed è questo il tema che trattiamo adesso, sia il disastro a largo del Golfo del Messico. Come si diceva poco fa, la BP ha già detto poco fa che sta, non diciamo fallendo, ma si sta ritardando nuovamente la nuova operazione per tentare di fermare la falla che si chiama Cut and Cap. A quanto pare una sega si è incastrata là sotto e al momento non riescono a rimuoverla. Ieri stesso Obama era tornato a parlare di tutto questo, tornando ad attaccare BP. Dice: continuerò a ritenere responsabile BP per tutte le perdite economiche subite dalle persone che vivono nella regione. Sentiamo la voce di Obama. Vogliamo che la British Petroleum ripaghi i danni economici. Continueremo tassativamente a ritenere la BP e ogni altra compagnia responsabile delle perdite subite dalla gente della regione. Ma la nostra responsabilità non termina qui. Vogliamo proseguire nelle indagini per comprendere cosa non ha funzionato e per determinare quali riforme e misure siano necessarie per evitare che riaccada di nuovo una crisi di questo tipo. Se le leggi che abbiamo non sono sufficienti per prevenire la fuoriuscita di petrolio, le leggi devono essere cambiate. Se il mancato rafforzamento di queste leggi ha portato a questo disastro, il sistema di controllo deve essere riformato. Se le nostre regole sono sbagliate e hanno portato morte e disastro, la mia solenne promessa è che porteremo i responsabili della Marea Nera in tribunale, a nome delle vittime di questa catastrofe e degli abitanti della regione. E dunque, questo è il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che, come vi dicevamo, sta parlando anche adesso. Oggi il titolo BP in borsa ha perso un paio di punti percentuali circa. Bisogna dire che è quasi un sospiro di sollievo probabilmente per i responsabili dell'azienda, visto che ieri aveva perso circa il 13%. Di tutto questo parliamo con la collega Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Buonasera Sissi. Sì, buonasera. Allora, iniziamo a fare qualche calcolo, perché Obama è stato abbastanza generico. Che indicazioni ci sono? Cioè, quanto potrebbe costare tutto questo a BP, ammesso che poi non si arrivi ad una transazione, eccetera, eccetera? Obama non può che essere generico, perché ahimè nessuno lo sa con esattezza. Una delle maggiori incognite in particolare è quanto potrà essere l'importo delle cause che vengono intentate a BP, e che poi negli anni, come ci insegnano i casi passati, tipo le cause contro la ExxonMobil per la Exxon Valdez, possono anche ridursi come risarcimenti, rimborsi, alla fine qualcosa si patteggia. In questo caso c'è un danno ambientale grossissimo da ripagare, da ripulire. Quello che sappiamo è che BP ci ha comunicato un paio di giorni fa che finora ha speso 990 milioni di dollari, e le ultime stime, pensa, diffuse da alcuni analisti, ad esempio Credit Suisse proprio ieri, dicono che il costo alla fine potrebbe raggiungere i 37 miliardi di dollari, meno comunque di quello che BP ha già perso in borsa. Come ricordavi giustamente, ieri è andata giù del 13%, oggi sta andando ancora giù. Da quando è successo l'incidente, il 20 aprile, ad oggi ha perso più del 35% del suo valore, per un equivalente di 65 miliardi di dollari rotti. Sì, oggi capitalizza, mi pare, 79 miliardi di dollari. Diamo anche un quadro di quella che è la dimensione dell'azienda, perché sennò poi questi numeri rischiano, certo, di non avere senso, no? Un giro d'affari di 238 miliardi, utili che nel 2009 si sono attestati a 16 miliardi di dollari, 92 mila i dipendenti, giusto per dare la dimensione, il perimetro aziendale, chiamiamolo così. Allora, sì, partiamo dal macro tema, ossia gli effetti che tutto questo potrebbe avere sui prezzi del greggio. Perché? Perché da una parte c'è una stretta sulle trivellazioni sostanziale che è stata annunciata da Obama, dall'altra parte lo stesso Obama che, insomma, al petrolio non si può rinunciare, però lo abbiamo detto poco fa, dice bisogna ricorrere di più al nucleare e al gas naturale. Allora, che impatto la vicenda BP potrebbe avere? Ma guarda Simone, nell'immediato non ne ha avuto, sembrerà quasi incredibile, in altri periodi avrebbe avuto un effetto devastante sui prezzi, sapere tutto il delirio che c'è in una delle zone chiave di estrazione. Beh, appena un anno fa bastava una tempesta tropicale a far balzare il prezzo del greggio. Che non è poco comunque, sì, che non è poco, però, e che non è un rischio che abbiamo scampato, tra l'altro questa rischia di essere, secondo i meteorologi, una delle stagioni più pericolose degli ultimi anni per quanto riguarda gli uragani, adesso vedremo. Se le previsioni sono rispettate, dovesse esserci un uragano lì, mentre sono ancora in corso le operazioni di ripulitura, di riparazione di questo pozzo, Dio solo sa che cosa potrebbe succedere. Comunque nell'immediato, siccome in questo periodo il mercato del petrolio è molto rifornito, c'è un'abbondanza di petrolio a livello globale rispetto alla domanda che ancora non si è ripresa del tutto, i prezzi non hanno reagito un granché, reagiscono più in questo periodo a variabili macroeconomiche, all'andamento dei listini azionari, alle cioè, valute, preoccupazione all'euro. Magari che la ripresa non parte e quindi scende più che i salire. I prezzi del tutto petrolio stanno galleggiando da un po' intorno a 70 dollari, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, ma guardano soprattutto come ispirazione, come tendenza a mercati azionari e valutari. Non guardano tanto ai fondamentali del petrolio, che comunque sono buoni, sono confortevoli. In questo momento l'offerta di petrolio è ampia, tant'è vero che nel mondo abbiamo moltissime scorte di petrolio. È anche vero che questa tragedia, questo immane disastro nel Golfo del Messico non ha per adesso ostacolato un granché le operazioni né di estrazione né di trasporto. Se lo dovesse fare, per quanto riguarda il trasporto, potrebbero essere guai, perché nell'area Texas-Louisiana ci sono il grosso del sistema di raffinazione americano e passano ogni giorno qualcosa come 6 milioni di barili di greggio, qualcosa più delle importazioni cinesi totali. È veramente uno snodo importante per i trasporti, ma per adesso funziona nonostante tutto. Bene, a chi ci chiede, a chi si possono fare proposte serie per chiudere la falla, non so, proponete, c'è un sito. Che aveva attivato BP, io adesso non so l'indirizzo, ma comunque se Google cercate sul sito di British Petroleum, speriamo che, insomma, che la vostra funzioni. Sì, le trivellazioni. Sì, le trivellazioni è un grosso interrogativo, le trivellazioni offshore, perché questo pozzo a cui è successo questo disastro non era neanche dei più difficili, quindi quello che viene messo in discussione è proprio tutto l'offshore, che è la parte di estrazione petrolifera da cui doveva provenire il massimo della nuova offerta petrolifera per soddisfare fabbisogno futuro. E adesso abbiamo visto che sono state bloccate per altri 6 mesi negli Stati Uniti, le nuove licenze ci vorrà molto tempo, potrebbero esserci norme molto più onerose da rispettare, costi molto più elevati di sicurezza, giustamente, quindi questo spazzerà via gli operatori più piccoli. Insomma, morale della favola, è probabile che l'offerta non OPEC non crescerà tanto come ci aspettavamo e che quindi saremo ancora molto dipendenti dall'OPEC negli anni a venire e forse più esposti a nuovi record di prezzo del petrolio. Benissimo, questo è che benissimo per modo di dire, naturalmente. British Petroleum in se stessa. Abbiamo citato poco fa la perdita di capitalizzazione, ci hai detto che circa un 35%, ormai le voci di una possibile offerta su BP iniziano a farsi abbastanza insistenti, soprattutto se poi le prospettive sono di pagare parecchi quattrini all'amministrazione americana e a chi eventualmente intenterà una class action. Ma sai, anche se dovrà pagare un parecchi quattrini, BP comincia a essere interessante come prezzo, interessante a fini speculativi per gli hedge funds, che infatti stanno già rastrellando titoli, anche se in maniera non ancora massiccia, interessante anche per eventuali, come oggetto di un takeover, perché no? E anche accollandosi poi le spese future. La preoccupazione più urgente però degli investitori, dei fondi di investimento, anche dei fondi pensione, BP è un titolo che è nel portafoglio di una marea di fondi di pensione anche britannici e non solo, la preoccupazione più urgente è che possa non pagare il dividendo, e questo sarebbe un grosso problema per i fondi, perché l'ha sempre pagato da più di 20 anni, che non ha mai mancato un appuntamento con ricchi dividendi. Se dovesse sospenderlo, ridurlo, è probabile che il titolo verrebbe scaricato da molti fondi. Allora ci chiede un ascoltatore, cerco di interpretarlo, dice: ma altre società tipo Total pagheranno dazio per la storia BP? Immagino che si riferisca probabilmente appunto alla questione trivellazioni, suppongo. Assolutamente sì, ma da un certo punto di vista è anche giusto, perché se effettivamente la sicurezza non era sufficiente, è giusto e sacrosanto che negli Stati Uniti venga aumentata, in altre aree del mondo è già più severa, nel mare del nord, sia nella sezione britannica che norvegese, ma nello stesso Brasile, Canada. Avevano tutti regole più severe che negli Stati Uniti. Pagheranno dazio? Certamente sì, le spese saliranno, i costi saliranno. Non mi fanno molta pena le compagnie petrolifere, perché come si diceva, qui parliamo comunque di società molto solide, molto capitalizzate, con ricchissimi profitti. Grazie dunque alla nostra Sissi Bellomo per averci aiutato a capire le vicende che seguono quella della marea nel Golfo del Messico. Buonasera Sissi. Buonasera. Da segnalarvi, prima di tornare al tema della Cina, una notizia che arriva dal Fondo Monetario Internazionale, un comunicato del Fondo Monetario, meglio, un testo che riguarda l'Italia. Le autorità italiane hanno ribadito l'impegno a ridurre il deficit sotto il 3% nel 2012 e un ulteriore risanamento nel lungo termine, e questo lo sapevamo. Le autorità si sono dette d'accordo, si legge nel documento del Fondo Monetario, sulla possibilità che le previsioni di crescita possano essere ottimistiche, e messo in evidenza che, se necessario, ulteriori misure correttive potrebbero essere adottate. Queste sono indicazioni che sono arrivate dalle autorità italiane al Fondo Monetario Internazionale. Un elemento interessante su cui riflettere magari anche nei prossimi giorni. Noi dunque ritorniamo alla Cina, come promesso, alla terza missione degli imprenditori e delle banche italiane dell'ICE in Cina. Un altro aspetto toccato dalla missione ha riguardato il bisogno di assistenza. Abbiamo sentito il lavoro svolto dalle banche nei giorni scorsi, ma c'è appunto anche necessità di assistenza e consulenza legale. Da sempre la non conoscenza degli aspetti legali commerciali è uno degli ostacoli più grossi che incontrano le nostre imprese in Cina. Sebastiano Barisoni ha intervistato l'avvocato Claudio D'Agostino, partner dello studio legale DLA Piper, il più grande studio al mondo, e vicepresidente della Camera di Commercio in Cina, chiedendogli com'è cambiato negli anni il bisogno di assistenza da parte delle nostre imprese. Onestamente, dopo tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni da parte di tutti, nel senso anche da parte degli altri studi legali, dei consulenti, di chiunque altro opera in questo paese, le basi di come si fanno le cose in Cina sono abbastanza note, insomma non è che ci sia più niente di così segreto. Certo è che adesso dall'altra parte la legislazione cinese è diventata più complessa e sta diventando sempre più raffinata in certi versi, quindi è una ci sono novità quasi quotidiane, e quindi non è più tanto una questione di un'infarinatura delle cose che bisogna sapere, si va proprio nello specifico, sempre più diventa una normativa di dettaglio, e quindi mestiere, diciamo così, d'avvocati. Ci faccia qualche esempio, non necessariamente tecnico, di come è cambiata rispetto a un'informazione più generale delle caratteristiche del diritto commerciale, in primo luogo, ma non solo, anche civile, cinese, la necessità e i bisogni delle imprese che adesso arrivano, le domande che vi vengono poste o i casi, le criticità più frequenti che affrontate. I temi caldi, diciamo, di questi mesi sono sicuramente gli aspetti di diritto del lavoro, sicuramente gli aspetti fiscali e sempre di più, diciamo, gli aspetti che riguardano quello che è il settore più, diciamo così, interessante e più caldo degli ultimi mesi e probabilmente dell'ultimo anno, e che sarà lo stesso e sarà così per i prossimi anni, cioè quello della vendita in Cina, quindi soprattutto del retail, di chi apre i negozi e fa delle attività di vendita al dettaglio, che è la cosa più interessante che si prospetta per i prossimi anni in Cina. E che era qualcosa a cui gli italiani fino a qualche anno fa non pensavano, cioè venivano qui per produrre, portare in Italia o produrre magari per il mercato asiatico, ma non distribuire in maniera capillare sul territorio. Beh, storicamente probabilmente sì, nel senso la prima presenza delle aziende è stata, o diciamo la presenza più importante delle aziende è stata sicuramente quella produttiva, la delocalizzazione o diciamo la localizzazione nella produzione. È ovvio che siamo italiani, quindi ragionevolmente abbiamo anche una fortissima presenza, diciamo, nel settore della moda, che pensavano già fin dall'inizio di aprire negozi, ma l'hanno sempre tutti fatto un po' con delle debite eccezioni, ovviamente, l'hanno sempre tutti fatto con una certa, diciamo così, attenzione e cautela, perché non si sapeva che tipo di mercato ci fosse qua. Beh, oggi il mercato è qua, quindi in settori importanti come quelli della moda, del consumer goods, anche dell'alimentare, questo paese è diventato sicuramente il posto dove fare e aprire attività di retail e negozi. Il caso, se dovesse raccontare il caso più critico, più emblematico dell'assistenza legale che viene richiesta, intanto è prima o dopo? Cioè è dopo che si verificano i problemi o prima di affrontarli? Esatto, il caso più critico è quello delle cose che sono successe quando già non si può fare niente. Normalmente hanno a che fare con quando sono presenti dei contratti fatti male. Dico quando sono presenti perché poi nella maggior parte delle operazioni commerciali, che non siano appunto costituzioni di società ma che siano semplicemente, non so, vendita di beni, non esistono spesso neanche questi contratti, quindi in mancanza, diciamo così, delle cose di pagamenti non esistono neanche elementi sui quali poter lavorare per cercare una soluzione al caso. Questo era la materia quotidiana, purtroppo lo è ancora adesso. Ecco, su questo forse una di queste cose che questi anni, diciamo così, di comunicazione e di esperienza, devo dire, non sono riusciti a risolvere. Ed è tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.